sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Rifiuti, si cercano alternative alla discarica di Terzigno e i sindaci fermano la protesta. Campagna shock in Svizzera contro i frontalieri italiani rappresentati come topi che rubano formaggio. Liguri arrestati un sindaco delle Cinque Terre e il presidente del parco. Istat, la recessione ha colpito di più il nord-ovest, cala la fiducia degli italiani secondo Confesercenti. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione. Dunque, in apertura di questa edizione, la nuova emergenza rifiuti in Campania. Ci sono novità dagli incontri di questa mattina? Ci colleghiamo in diretta con Paolo Piccone. Paolo. Sì, buongiorno. Come dicevi tu poc'anzi, è terminata l'occupazione della sala riunioni della provincia di Napoli da parte dei sindaci del Vesuviano, che protestavano denunciando il mancato impegno della provincia contro l'apertura di una seconda discarica all'interno del parco naturale del Vesuvio. I sindaci di Boscoreale, Langella, Trecase, Cirillo, Bosco Trecase, Borrelli, nonché il vice sindaco di Terzigno, Ranieri, hanno infatti incontrato il presidente della provincia Cesaro e l'assessore all'ambiente Caliendo. All'esito dell'incontro, dopo una notte passata nella sala riunioni del palazzo della provincia di Napoli di piazza Matteotti, i primi cittadini del Vesuviano hanno deciso di concludere la protesta iniziata ieri sera. Anche lo sciopero della fame del sindaco di Boscoreale è stato interrotto. In questa sede è stata concordata l'istituzione di un tavolo tecnico permanente che avrà anche l'obiettivo di trovare tutte le possibili alternative all'apertura della seconda discarica. Il tavolo si riunirà per la prima volta giovedì prossimo alle ore 18 in provincia. Anche nella notte, lo ricordiamo, appena trascorsa, si sono verificati incidenti a Terzigno, dove le forze dell'ordine che presidiano la discarica sono stati fatti oggetto di una sassaiola e del lancio di due bombe Molotov. Per il momento da Napoli tutto, ti restituisco la linea. Grazie dunque a Paolo Piccone. Ma perché dopo un periodo di tregua è tornata l'emergenza rifiuti? Alessandra Tedesco l'ha chiesto a Gabriella Gribaudi, che è docente di storia a Napoli, ha studiato il fenomeno e su questo ha scritto un libro, Il ciclo vizioso dei rifiuti campani. Ascoltiamo l'intervista. Perché i problemi strutturali non sono affatto stati risolti. La famosa gara del 93, insomma, era una gara che ha vinto l'Impregilo, che non era assolutamente l'azienda che aveva proposto il sistema migliore. In realtà l'impianto di Acerra non era il più tecnologicamente avanzato del tempo. E ancora adesso l'impianto di Acerra crea spesso dei problemi e si blocca. Insieme all'impianto di Acerra però dovevano essere costruiti 11 impianti di compostaggio. Allora, questi impianti di compostaggio non hanno mai funzionato, cioè diciamo si continua a fare spazzatura indifferenziata, che costruisce quelle famose ecoballe che poi vanno a occupare il territorio e che purtroppo vanno a finire tutte nelle discariche. Quindi le discariche aumentano, la popolazione giustamente secondo me protesta perché non ce la fa più, quelli che abitano vicino alle discariche, e continuamente si devono aprire altre discariche. Ci sono interessi della camorra nel ciclo dei rifiuti? Secondo me gli interessi principali della camorra nel ciclo dei rifiuti sono nei rifiuti nocivi, è evidentissimo, è stato spiegato bene da tanti e anche dallo stesso Saviano. Nel ciclo dei rifiuti, diciamo gli altri, diciamo la camorra utilizza, si inserisce in alcuni punti, però diciamo negli snodi centrali non c'entra molto. Ad esempio, chi dice che la camorra c'entra con le proteste della gente di Terzigno dice falsità, la gente semplicemente protesta perché non ne può più. E ci correggiamo, la professoressa Gabriella Gribaudi non ha scritto un libro ma un articolo per la rivista del Mulino su questo tema. Una notizia appena battuta dalle agenzie, prima di ritornare ai temi italiani, che arriva dall'estero. Uomini armati hanno rapito 15 bambini in una scuola nel sud della Nigeria, hanno chiesto un riscatto equivalente ad oltre 95.000 euro. Lo ha annunciato la polizia, secondo la quale i bambini sono stati sequestrati questa mattina mentre si trovavano su uno scuola bus. Se avremo aggiornamenti naturalmente ve li daremo. E veniamo al confine con l'Italia, in realtà, perché è partita su internet e ora campeggia sui manifesti la campagna Shock del Canton Ticino, che raffigura i lavoratori stranieri come topi. Tra gli obiettivi, sensibilizzare sul problema dei 45.000 frontalieri italiani. Rieccoci dall'altra parte della barricata. Mentre discutiamo dei campi rom e di espulsioni, veniamo rappresentati come ratti intenti a depredare un patrimonio altrui, nella fattispecie una forma di formaggio svizzero. Succede in Canton Ticino, dove è partita una campagna contro i lavoratori stranieri, tra cui i frontalieri italiani. Dei 3 topi che campeggiano sui manifesti affissi nell'intero cantone, 2 sono italiani, uno di Verbania, piastrellista, l'altro di Milano, un avvocato che si serve dello scudo Tremonti. Il terzo, romeno, ha sugli occhi la mascherina della banda Bassotti, inutile spiegare quello che simboleggia. I committenti della delirante campagna per ora non ci mettono la faccia. A parlare è chi l'ha realizzata: Michel Ferrise, titolare dell'omonima agenzia di comunicazione. Il messaggio è semplicemente dare l'attenzione ai ticinesi di questo problema che c'è oggi. La disoccupazione è in aumento, giovani ticinesi che non trovano posto di lavoro. Adesso se il problema è frontaliero, non lo so, ma probabilmente è anche questo. È un problema che vivete anche voi in Italia, questo penso. In modo inverso, in Italia magari ci sono i cinesi e qua in Ticino l'abbiamo anche noi. Molti dei nostri cinesi stanno appunto a Verbania, che conta 3.500 frontalieri. Il sindaco Marco Zacchera: innanzitutto il topo Tremonti non fa che cercare di ripristinare la legge con lo scudo fiscale, ed è vergognoso allora che gli svizzeri si trincerino dietro alla copertura del segreto bancario per campare. In secondo luogo, le aziende del Ticino da decenni vanno avanti col frontalierato italiano, e quindi non mi sembra proprio il caso di far nascere le campane di odio come di fatto queste cose stanno creando. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora nessuna decisione dal sindaco di Adro, il comune dove la scuola è tappezzata da simboli leghisti del Sole delle Alpi. Ieri sera i giornalisti e tutti i non cittadini del comune sono stati invece allontanati dall'aula dove si teneva il consiglio comunale. La riunione è stata rinviata questa sera a porte chiuse. Ci sono stati momenti di contestazione e di tensioni. Vi facciamo ascoltare cosa è accaduto. Non vi devo dare niente, non vi devo dire proprio come niente. Sa che una state esagitando le persone, qui si sta creando un clima che ad Adro non c'è mai stato, quindi io no. Sei un posto pubblico. Mi hanno già invitato a uscire. In nome di che cosa mi inviti a uscire? E siccome io non voglio assumermi nessuna responsabilità per come possa andare a finire questa faccenda, e siccome capisco che quando si ha a che fare con delle persone poco ragionevoli, consiglio comunale questa sera viene risposta a domani sera a porte chiuse. E questo dunque è quello che è successo ad Adro. Ci spostiamo in Liguria, dove sono stati arrestati un sindaco delle Cinque Terre e il presidente del parco. Iniziano a delinearsi i contorni dell'inchiesta che stamane ha sconvolto le Cinque Terre, uno degli angoli più suggestivi del Mediterraneo inserito tra i patrimoni dell'umanità. A trascinare in cella il presidente dell'ente parco, Franco Bonanini, e il sindaco di Rio Maggiore, Gianluca Pasini, è stata una serie di presunti abusi legati ad interventi edilizi di consolidamento del territorio, interventi finanziati da fondi regionali ottenuti in seguito a frane e smottamenti. L'elenco dei lavori comprende la ristrutturazione di un edificio storico, la messa in sicurezza di canali e sentieri. In sostanza, secondo l'accusa, queste opere sarebbero state avviate solo sulla carta o in modo parziale, per poi destinare il denaro verso altri scopi. A far scattare l'inchiesta sono state alcune lettere anonime giunte nei mesi scorsi alla polizia. Stamattina la retata, 15 i provvedimenti emessi dal GIP. Oltre a Bonanini e Pasini, sono finite in carcere 6 persone, tra le quali il comandante della Polizia Municipale di Rio Maggiore. 4 sono ai domiciliari, altre 3, si tratta di consulenti del comune, sono state interdette dall'esercizio della libera professione. Gerolamo Ascione è il dirigente della squadra mobile della Spezia. I reati contestati vanno dall'associazione a delinquere finalizzata alle truffe e danni allo Stato, a mezzo di numerosi atti falsi, quindi falsi materiali, falsi ideologici, alcune ipotesi concussive, abuso d'ufficio. L'arrestato eccellente è Franco Bonanini, presidente del Parco delle Cinque Terre, nel 2009 candidato del Partito Democratico alle Europee. Non fu eletto per una manciata di voti, una figura molto popolare nel Levante Ligure. In passato è stato sindaco di Rio Maggiore per più mandati e presidente dell'Agenzia di Promozione Turistica della Regione Liguria. Andrea Ferro, GR24, Sole 24 Ore, Genova. E ora a Palazzo di Giustizia di Milano, dove c'è stata un'altra udienza per il processo civile del lodo Mondadori. Raffaella Calandra. Sì, buongiorno. Sul lodo Mondadori è ancora una giornata di scontro tra le parti. Nell'aula della seconda sezione civile è la Fininvest a chiedere chiarimenti e integrazioni alla consulenza tecnica depositata venerdì, che ha confermato il danno per la CIR nella contesa per il controllo della casa editrice, riducendolo però di molto rispetto ai 750 milioni del primo grado. I periti ora confermano che quella sentenza fa acqua da tutte le parti, commenta Romano Vaccarella per la Fininvest, smentendo indiscrezioni su ipotesi di accordo extragiudiziale tra le parti. Superflua giudica invece la CIR ogni integrazione, ricordando con l'avvocato Vincenzo Roppo l'obiettivo di una conclusione della battaglia entro l'anno. Ora il 5 e l'11 ottobre prima Fininvest poi CIR depositeranno le loro conclusioni, su cui si pronuncerà poi la Corte prima di emettere un verdetto su questo nuovo capitolo della guerra di Segrate. Dal Tribunale è tutto. Grazie dunque a Raffaella Calandra. E di poco fa la notizia che con 5 voti a favore, 1 contrario e 2 astenuti, il CDA della RAI ha dato il via libera al contratto del programma di Serena Dandini, Parla con me, che riparte questa sera su Rai 3. In realtà non è ancora ufficiale, è quel che battono le agenzie parlando di fonti del Consiglio di Amministrazione. Siamo dunque alla politica con il vertice a Palazzo Grazioli tra Berlusconi e i capigruppo. In diretta da Roma Elisabetta Fiorito. Elisabetta. Sì, giorno di preparazione sulla risoluzione del premier Silvio Berlusconi a Montecitorio. Il PDL convoca un vertice in via del plebiscito insieme alla Lega, ma senza Futuro e Libertà. E il FLI annuncia una mozione propria qualora non fosse chiamato a partecipare alla stesura della risoluzione di maggioranza. Lo dice questa mattina Benedetto Della Vedova, spiegando che i parlamentari finiani sono ancora in attesa di essere consultati. E sulla mozione del FLI potrebbero convergere anche i voti dell'API. Mentre le ultime notizie danno il partito di Casini, l'UDC, intento a votare no a Berlusconi. Si apprende poi che il discorso di Berlusconi sarà incentrato sui problemi del paese, che deve continuare a modernizzarsi. Nessun voto di fiducia, ma una risoluzione programmata puntando ad allargare l'attuale maggioranza. Intanto 5 UDC siciliani lasciano il gruppo alla Camera e confluiscono nel gruppo misto insieme a Caleari dell'API. Ormai il governo e l'armata Brancaleone dicono invece dal PD Berlusconi ammetta la crisi e salga al Quirinale. Per il momento qui da Roma è tutto, a voi studio. Grazie dunque ad Elisabetta Fiorito e veniamo al calcio in chiusura di questa prima parte. Lo sport, appunto il calcio, con la serata di Champions League. Sono big in cerca di identità, Milan e Roma, alla prova del martedì di Champions. Per i rossoneri trasferta insidiosa quella di Amsterdam contro un'altra grande, quell'Ajax oggi guidata dal bomber uruguagio Suarez, ma che fu culla del talento di Seedorf e Ibrahimovic. Allegri finora ha trovato i risultati, non ancora il gioco. Ma Gagliani, sia in Coppa che in campionato, è pronto a tradire la filosofia aziendale pur di riempire la bacheca. Il Milan deve essere concreto oltre che divertente. Non siamo a un parco di divertimenti, dobbiamo vincere il campionato. All'Olimpico la Roma ospita i romeni del Cluj. Dopo il KO di Monaco i 3 punti sono d'obbligo. Dimenticato il muso lungo per la sostituzione contro l'Inter e fresco di 34esimo compleanno avvelenato dall'ennesima polemica con la Lega Nord, Capitan Totti sarà di nuovo titolare. Il Ranieri spera che il successo sui nerazzurri abbia dato nuova fiducia e coraggio a squadra e tifosi. Quella medicina giusta che ci voleva per riprendere quella speranza che i ragazzi stavano perdendo. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nella prima parte del giornale radio abbiamo parlato di rifiuti, si stanno cercando alternative alla discarica di Terzigno e i sindaci hanno fermato la protesta. Abbiamo parlato della campagna shock in Svizzera contro i frontalieri, gli italiani rappresentati come topi che rubano formaggio. Abbiamo parlato di politica con il vertice che si sta svolgendo in questi minuti a Palazzo Grazioli. Ora torniamo sulla cronaca. Perché la mamma che non poteva morire ce l'ha fatta, sentiamo. Pesa solo 800 grammi ma sta bene, Edil, nata all'ospedale Sant'Anna di Torino dalla mamma in coma da un mese. La donna, il suo nome è quell'Edil che ora porta anche sua figlia, somala, 28 anni, era arrivata in Italia per curarsi perché colpita da una grave forma di tumore al cervello, ma le sue condizioni sono nel frattempo peggiorate. I medici sono però riusciti a tenerla in vita artificialmente e hanno fatto di tutto perché la sua bambina potesse crescere il più possibile. Ieri poi si è arrivati alla 28esima settimana di gravidanza, considerata dai medici una soglia di sicurezza per i neonati. E questa mattina è il parto cesareo d'urgenza perché le condizioni della mamma rischiano piano di precipitare da un momento all'altro. Edil ora si trova ricoverata nel reparto di terapia intensiva neonatale, ma sembra in discrete condizioni. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E veniamo adesso alla pagina economica, iniziando dalla crescita italiana. I dati dell'Istat forniscono una mappa di dove la crisi ha colpito di più. Come si compone questa mappa? Lo chiediamo a Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno. La congiuntura negativa internazionale ha colpito in proporzione più duramente al nord che al sud. A metterlo in evidenza è l'Istituto Nazionale di Statistica nella ricerca principali aggregati dei conti economici nazionali. Di fatto il prodotto interno lordo si è ridotto del 6% nel nord-ovest, del 5,6% nel nord-est, del 3,9% nel centro e del 4,3% nel mezzogiorno, a fronte di un valore nazionale medio pari a meno 5%. L'anno di riferimento è il 2009. Ma i dati dell'Istat permettono di analizzare l'andamento del PIL anche a livello regionale. E da allora è l'Abruzzo, la regione italiana, che ha registrato sempre lo scorso anno il calo più consistente, meno 6,9%, penalizzata è anche l'occupazione di quella realtà locale con un meno 5,8%. La regione pagherebbe, secondo l'Istat, le conseguenze del terremoto che ha colpito l'Aquilano. Tra le regioni del nord, la Lombardia è quella più colpita in termini di crescita, meno 6,3%, seguita da Piemonte e dal Veneto ed Emilia Romagna. Il calo dei consumi più consistente si evidenzia invece nel mezzogiorno, nell'ordine Calabria, Puglia e Sicilia. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo. E fra i danni della crisi non c'è solo pessimismo e preoccupazione che persistono, ma anche un forte calo di fiducia degli italiani. Questo è quel che si legge nel quarto rapporto Confesercenti ISPO, dedicato appunto agli italiani e la crisi. La sfiducia delle famiglie investe tutti i principali attori dello scenario politico e sociale: governo, opposizione, sindacati, enti locali e banche. Al microfono di Teresa Trilloder, agenzia di stampa Il Sole 24 Ore e Radio Core, il presidente di Confesercenti, Marco Venturi. Sicuramente gli italiani sono molto preoccupati, e soprattutto sono preoccupati perché la politica litiga mentre c'è bisogno di prendere dei provvedimenti che risolvano i problemi, soprattutto quelli del lavoro, che preoccupa moltissimo gli italiani. Lavoro e piccole imprese, credo che questi siano i nodi principali, e quindi bisogna fare quei passaggi che consentano, attraverso tagli di spesa, di ridurre la pressione fiscale, soprattutto per lasciare risorse alle imprese da reinvestire nello sviluppo. Bisogna creare lavoro e quindi incentivare le imprese a, diciamo, non solo mantenere, non chiudere in una fase di crisi, ma a innovare, a sviluppare in modo da creare anche nuovo lavoro. Sin qui l'economia italiana. Per quanto riguarda l'economia estera, i dati confermano quel che molti istituti di ricerca avevano già intuito: insieme alla Germania a tirare in Europa e l'Inghilterra. L'economia inglese nel secondo trimestre è cresciuta al suo ritmo più alto negli ultimi 9 anni, mentre la crescita nei primi 3 mesi è stata rivista leggermente al rialzo. Il PIL è salito dell'1,2% nei 3 mesi a giugno, confermando sia la stima pubblicata lo scorso mese che le previsioni degli analisti. Il tasso annuo di crescita è stato dell'1,7%, anche qui dato confermato e previsto. Segna invece un boom il settore delle costruzioni, che col 9,5% registra il tasso di crescita più rapido dal 1963. I dati diffusi oggi mostrano che l'economia britannica sta recuperando un ritmo molto deciso dalla peggior recessione alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Molti economisti, tuttavia, prevedono che questo sia più un punto d'arrivo che di partenza. La crescita rallenterà in maniera decisa nei prossimi mesi, a fronte dei tagli incombenti alle spese decise dal governo e alla debolezza della domanda estera. Per questo motivo, la Banca d'Inghilterra dovrebbe mantenere una politica monetaria molto accomodante e tassi bassi fino a ben oltre l'inizio del prossimo anno. Giorgio Maimone, Il Sole 24 Ore, Radio Core, per Radio 24. Si avvicina, non senza difficoltà per gli organizzatori, la data nella quale il Burro dovrà decidere sull'Expo di Milano. Una volta era l'Expo, una vetrina per Milano, una grande occasione per il paese. 900 giorni dopo l'assegnazione, la vicenda si complica. Morale, anche se il 2015 sembra lontano, il fallimento è dietro l'angolo, perché entro il 18 ottobre l'Ufficio Internazionale dell'Esposizione vuole avere la certezza della disponibilità dei terreni, e quella disponibilità a oggi non c'è. Eppure la soluzione sembrava un passo. La Fondazione Fiera, proprietaria di 2/3 dell'area, acquista il terzo rimanente dal gruppo Cabassi. A questo punto la Fondazione, ente pubblico, mette a disposizione di Expo i terreni, tacendo voci di possibili speculazioni. Ma la Regione dice no, e lo fa con un parere legale che Formigoni invia al sindaco Moratti e al presidente della provincia Podestà. Nel parere si ripropongono tre strade: l'accordo dei privati, su cui però la Regione ha l'ultima parola, l'acquisto da parte di una nuova società pubblica con i soldi della Regione, l'esproprio. Tutte strade lunghe e tortuose da percorrere, soprattutto in tempi così stretti. Non erano bastate le liti sulla composizione della società di gestione, non era bastata la polemica sul doppio incarico di Lucio Stanca, AD della società, mancava solo il problema dei terreni che dovranno ospitare l'esposizione. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo alla pagina estera adesso. Il presidente palestinese Abu Mazen chiede che Israele rispetti una moratoria sulla colonizzazione fino a quando vi saranno negoziati di pace. La tensione resta alta. Alessandro Milan ha intervistato il portavoce del governo israeliano, Avi Pasner, uno dei portavoce del governo israeliano, che spiega: comunque non ci saranno in realtà nuovi insediamenti ebraici in Cisgiordania. Ascoltiamo. Non c'era nessun costruzioni di nuovi insediamenti, nessun costruzione di nuovi insediamenti. Ciò che facciamo è una costruzione moderata, responsabile, soltanto negli insediamenti che già sono, e questo è perché uno non può surgelare la vita. La gente si sposa, nascono dei bambini, c'è bisogno di scuole, c'è bisogno di ospedale, c'è bisogno di aggrandire le case. Tutto ciò che facciamo è in una maniera responsabile, moderata, non ci saranno nuovi insediamenti. Notizie contrastanti sulla sorte di Sakineh Mohammadi Ashtiani, la donna iraniana già condannata alla lapidazione per adulterio con sentenza poi sospesa. Sarebbe stata condannata a morte tramite impiccagione per l'uccisione del marito, secondo quanto scrive oggi il quotidiano Tehran Times. Mentre invece il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, Ramin Mehman Parast, ha detto che il processo non è ancora finito. Parliamo di medicina adesso, una medicina che funzionerà come un interruttore per spegnere l'emicrania, lavorando su un gene che determina la percezione del dolore e che, se controllato, potrebbe evitare la sofferenza dei frequenti e prolungati mal di testa. Il possibile sviluppo di una ricerca di scienziati britannici e canadesi. Nicoletta Carbone ha sentito il professor Piero Barbanti, primario neurologo dell'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Fino adesso erano stati trovati geni per alcune sottoforme di emicrania con aura, molto rare per la verità. Questo tipo di gene invece sembra essere implicato in una forma di emicrania che riguarda il 30% degli emicranici, chiamata emicrania con aura. L'aspetto importante di questa scoperta sta nel fatto di aver identificato un canale del potassio, che si chiama appunto TRESC, il quale sembra essere proprio sospettato di quel fenomeno, che ha un nome molto difficile, cortical spreading depression, sostanzialmente una specie di iperattività della corteccia cerebrale, seguito poi da un riposo compensatorio che è alla base dell'emicrania con aura. Quindi un vero passo avanti. L'aver identificato in questa forma di mal di testa, non rara, finalmente non rara, un specifico gene implicato, avrà ovviamente nel corso degli anni come logica conseguenza lo sviluppo di molecole specifiche per compensare quel difetto genetico. Tanto più specifico il farmaco, e ora sembrerebbe possibile, tanto meno effetti collaterali. In chiusura i risultati del nostro sondaggio. Bossi che dice romani porci, secondo voi va presa come una battuta? Il 35% degli ascoltatori ha risposto sì, mentre il 65% considera le parole di Bossi più di una battuta. È tutto per questa edizione di GR24, condotta e curata da Simone Spezia, coordinata da Maria Piera Ceci, con in regia Fabio Cantadori. Il prossimo giornale radio alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.